Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di imprese, parliamo di aziende, parliamo di persone che costruiscono il futuro e ne parliamo con Massimo Folador. Buonasera Massimo Folador. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Massimo Folador è socio amministratore di Askesis, poi ci spiegherà che cos'è Askesis, è inoltre direttore dell'unità di studi sull'etica presso la LIUC, l'Università di Castellanza, l'Università Carlo Cattaneo, ed è presidente dell'Associazione Culturale Verso il Cenobio. Ecco, per le edizioni Guerini Next ha pubblicato il libro Un'impresa possibile, persone e aziende che costruiscono il futuro. Beh, allora cominciamo da Askesis però, professor Folador. L'Ascesi, cosa c'entra l'Ascesi con le aziende? C'entra, nel senso che la parola italiana dà origine a qualche dubbio, mentre quella greca a cui noi ci abbiamo fatto riferimento è molto più interessante. Askesi sostanzialmente vuol dire, da una parte, allenarci, la scommessa è il miglioramento, come sempre, e la richiesta che il miglioramento fa a ciascuno di noi di un allenamento quotidiano. Di contro dice che l'allenamento non è mai fine a se stesso, ma ha bisogno di una meta, di un fine. E la parola sempre fa riferimento all'artigiano, sostanzialmente a chi nel tentativo di creare una forma perfetta tutti i giorni dà una forma a questo suo desiderio, a questo suo progetto. Per cui la parola antica dice un po' due cose: da una parte tutti i giorni fare qualcosa di positivo, di utile a raggiungere una forma desiderata. Ecco, la società di consulenza che appunto con cui noi facciamo questa attività in azienda vorrebbe provare a fare queste cose assieme alle aziende. Ecco, quindi cambiare progressivamente, allenarsi a cambiare, avere degli obiettivi, tra fatica di cambiare, il gusto di migliorare, peraltro è il primo capitolo di questo libro, e direi che è un capitolo che si adatta a un manuale di management in cui bisogna guardare alla realtà aziendale, cambiare per competere, cambiare per migliorare, cercare tutte le strade per rendere più efficiente l'azienda. Ma poi c'è un secondo capitolo, dice verso il bene comune. Anche qui è un po' una provocazione, un'azienda dovrebbe guardare al profitto. Allora, il libro lei avrà visto, è zeppo di provocazioni. Provocazioni sane e concrete, io credo, nel senso che la mia è un'esperienza pratica, è vero, scrivo libri, studio, dirigo un centro di ricerca, ma sono persona che tutti i giorni è in azienda, che lavora, ha imprese, fa cose. E nel fare appunto questo lavoro, la mia esperienza mi dice come sia fondamentale sicuramente proseguire a investire sull'organizzazione, sugli strumenti di supporto all'impresa, ma siamo oramai di fronte a un bivio, che è appunto quello di un investimento sano, sistematico, reale, profondo sulle persone. Il problema delle persone è solito, nel senso che le persone fortunatamente siamo degli umani, siamo appunto persone e abbiamo bisogno di esercitare la nostra libertà. Le aziende chiedono alle persone tanto, di più, questo per motivi di mercato, per motivi hobby, ma di più spesso questa eccedenza che le persone possono dare è data dalla libertà, ovvero dal fatto che le persone trovino uno o più motivi profondi, veri, personali per esercitare la loro energia. Questo è l'aggancio al bene comune. Io credo che migliorare sia un atto dovuto per l'organizzazione e per la persona. È divertente migliorare, è piacevole migliorare, è giusto migliorare, ma il miglioramento è possibile solo se esiste una meta positiva, se esiste uno scopo utile. In azienda questo scopo non può essere individuale, deve necessariamente essere uno scopo comune. Per cui sommando questi due elementi, parte il bene come meta, dall'altra il comune come meta aziendale, salta fuori il bene comune. Io credo che oggi le aziende che funzionino spesso all'interno riescono tutto sommato a concepire questo punto di incontro e a realizzarlo. Ecco, non a caso il capitolo terzo si intitola La persona, il talento, l'eccellenza, cioè di fronte a un'azienda che deve essere ben organizzata, in cui ci deve essere la possibilità per le persone di esprimersi, anche l'efficienza dell'azienda diventa un risultato e il profitto diventa quasi una conseguenza più che un obiettivo. Non è l'obiettivo principale, ma è una conseguenza di un'azienda, una conseguenza naturale, direi quasi dovuta, di un'azienda ben organizzata che sa valorizzare le competenze delle persone. E qui si parla anche di comunità organizzata, è forse troppo pensare alle aziende come delle comunità. Lei so quanta attenzione ha dedicato ai miei studi precedenti. La cosa che mi lasciò molto incuriosito, più che incuriosito rispetto ai monaci, fu proprio quello che lei citava adesso, cioè i monaci non hanno mai deciso di fare impresa, tutto sommato, hanno fatto impresa inconsapevolmente. I loro risultati, che sono stati tantissimi sia dal punto di vista economico che di opere, sono frutto di un lavoro personale, individuale, interiore e comunitario, e i cui risultati sono quasi, non dico come conseguenza certa, i risultati di tipo economico, che sono quelli che l'azienda si auspica di raggiungere per forza, ma spesso e volentieri. Aggiungo due cose però. La prima è che, per quanto riguarda questo libro, quando io parlo nel libro di talento non intendo la sola competenza. La competenza è fondamentale nella costruzione del talento e nell'espressione del risultato, della performance, ma per me è talento il desiderio. Ciascuno di noi può dare molto di più per sé e per l'azienda, a patto che provi a lavorare seriamente sul proprio talento, nel senso di aspettativa personale, di desiderio personale. Detto in soldoni, che cosa ci interessa fare, che cosa ci intriga, che cosa riteniamo giusto, utile, bello fare, che poi diventa competenza e può diventare risultato, performance. Di contro la comunità, io credo che anche su questo tema ci sia molto da dire, ma ci sono moltissimi imprenditori, il super citato Olivetti, ma io lo lascerei stare, che è fin eccessivo, ma penso a imprenditori di questo periodo, tanti, molto citati e sconosciuti, che hanno ben compreso come l'azienda sia per forza un'organizzazione, certo, con tutta una serie di elementi propri dell'organizzazione, le procedure interne, i processi interni, gli strumenti, ma che dentro questa organizzazione convivono delle persone e che, perché l'organizzazione funzioni, serve per forza il supporto delle persone e della relazione. La comunità dice questo. Quanto diceva è proprio il fatto che il cambiare non è un cambiare per cambiare, ma è anche un riscoprire un po' le radici dell'imprenditorialità. Lo sottolinea, per esempio, proprio nel suo libro Michele Graria, che è presidente dell'Università Carlo Cattaneo, in cui dice che la tipica struttura imprenditoriale dell'Italia del boom economico è esattamente l'esempio organizzativo di tutto questo che abbiamo detto. L'impresa familiare aveva e continua ad avere nel proprio DNA non solo l'ottenimento del profitto come primo obiettivo, ma anche una visione di medio termine che comprenda la gratificazione di collaborare in un gruppo affiatato che condivida progetti, passione per il proprio lavoro, desiderio di operare anche nell'interesse della collettività. Questo è Michele Graria nella prefazione del suo libro. Quindi in questa prospettiva, diciamo, si tratta di recuperare dei valori che ci sono già e che forse anche un'ottica un po' distorta della globalizzazione ci ha portato a superare. Io credo che noi si debba andare verso, appunto, la praticità delle cose, tanto più quando si lavora, insomma, e torno a ripensare alla mia esperienza. Non so se lei ha fatto caso a ciò che io scrivo nella quarta di coperta, dove il concetto è: volendo analizzare i frutti di questo momento storico, i frutti dell'economia di questo momento, vediamo a volte frutti immaturi. Se è vero che i frutti sono legati all'albero, ci sta che l'albero oggi non abbia radici profonde o comunque non è un albero sano. Come fare a generare un albero sano che produca frutti maturi? Ecco, di fronte a questa domanda, che è di una semplicità estrema, bisognerebbe andare a vedere le aziende che oggi producono frutti maturi. Me ne viene in mente una che in questo periodo è tornata, ahimè, alla ribalta per motivi di altro tipo, che è la Ferrero. Certo. Ecco, Ferrero è stato ed è l'uomo più ricco d'Italia, segno probabilmente di un'impresa che da 50 anni produce risultati economici e non solo. Volendo leggere il modello Ferrero, fortunatamente discretissimo, si troverebbe sicuramente un'abilità enorme nel gestire le attività economiche, ma chi conosce Ferrero sa che dietro c'è un'azienda attentissima al territorio, attentissima alla responsabilità sociale, con un rapporto privilegiato con dipendenti e fornitori, con dei rapporti splendidi con le comunità estere, specie africane, dove loro operano. Allora, se questa modalità fa di questa azienda l'azienda che è di Ferrero il più ricco al mondo, mi chiedo perché non se ne parli. E si parla di Briatore, che è tutt'altra cosa, ma giusto per citare un nome, Fabio. Certamente, sì, non per fare giudizi, certamente un po' di colpa, i giornalisti ce l'hanno, le cose positive fanno poca notizia o si pensa che facciano poca notizia, però anche questo è forse un luogo comune, ci sono anche tante buone notizie che fanno notizie. Lei citava la quarta di copertina del suo libro, si può leggere quanto scrive, appunto: l'Italia ha la fortuna di poter guardare anche al passato per migliorare il futuro e di attingere alla bellezza bellezza che abbiamo alle spalle per generare quella che ci attende. Ecco, anche il concetto di bellezza è un concetto che si trova forse raramente nei manuali di management americani. Ma io credo che questa sia la nostra grande fortuna, ma se noi ci prendessimo la briga di uscire dagli stereotipi e pensassimo alle aziende con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, sicuramente troveremmo imprenditori e manager capaci anche di fare questo passaggio. Troveremmo imprese che stanno facendo risultati da anni, stanno tornando a farli nel rispetto del sociale che l'azienda è, nel rispetto di parametri che non sono sempre solo quelli di profitto. E dietro a questi spesso troveremo la bellezza, che non è solo bellezza esteriore. Alla fine del libro forse lei ha notato questo mio tentativo di parlare di una bellezza esteriore citando Adriano Imperatore e interiore citando Olivetti. Ecco, io credo che tanti di noi che fanno impresa oggi lo fanno mossi da questa bellezza, realizzare qualcosa di bello, di utile per sé, per i propri collaboratori, per il sociale, ma qualcosa di bello per la propria interiorità, per il gusto semplice di stare in ambienti belli, con persone belle, sentendosi bene, insomma, ecco, in questo... in maniera anche sostenibile, io vorrei aggiungere. Un'ultima domanda, lei ha molto a che fare all'università con i giovani rapidamente colgono questi elementi, hanno la passione per guardare ad elementi di fondo come la bellezza, come la solidarietà. Guardi, la mia esperienza è duplice. Io credo che noi abbiamo fatto un cattivo lavoro su alcuni elementi. Parlo di noi, sulle scuole, all'università. Lavorando in università spesso mi rendo conto che su queste parole non è stata creata cultura, per cui parlare a volte con i giovani di queste cose vuol dire non far piovere sul bagnato. Quando mancano riferimenti di fondo, culture di fondo, è chiaro che a volte è difficile capirsi sostanzialmente. Di contro, io ho la fortuna di lavorare appunto con dei giovani su alcuni progetti. Quando incontri giovani che viceversa, per mille motivi, incontrano anche modalità diverse, è chiaro che li ritrovi desiderio, speranza, energia. Ed è a questa energia che noi dobbiamo puntare anche per invertire un po' la situazione di oggi. Certo. Insomma, i giovani andrebbero accompagnati in un percorso culturale che riveda alcuni valori, alcune tensioni, e accompagnati poi nel prendere questi valori e fatti diventare impresa quotidianamente. E allora, per tutti il consiglio è quello di leggere questo libro. Grazie a Massimo Folador di essere stato con noi questa sera. Ricordo il libro Un'impresa possibile, persone e aziende che costruiscono il futuro, edito da Guerini Next, sono 206 pagine per €19,50. Grazie a Folador, grazie a Peter Bescape in regia, Luca Cremonese in redazione. Appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.